Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Piano piano nel tempo, molto recentemente, ho capito poi che appunto la voce fa proprio un percorso, va come te, cioè risente del tuo stato d'animo, risente della tua condizione fisica, di tutto quello che tu comunque vivi e passi. Capita a volte che la vita ci consegni dei doni unici e preziosi, e lo faccia a domicilio. Ma non è sempre tutto scontato, perché un dono può diventare una patata bollente, un'eredità scomoda, un vero e proprio rompicapo. Il dono, per definizione, non prevede un ritorno. È un regalo che si riceve, poi ognuno può farne quello che vuole. Bisogna solo decidere. È il percorso che ha dovuto seguire la nostra protagonista di oggi, Giorgia Todrani, per tutti semplicemente Giorgia. Una delle voci più incredibili e in possesso di uno spettro quasi infinito che sono giunte alle nostre orecchie. Quando si parla di Giorgia viene abbastanza semplice e sbrigativo pensare che probabilmente non ha dovuto fare una grande fatica. Magari ha dovuto aspettare un po' di consapevolezza, come tutti, e poco di più. Insomma, quando si è in possesso di un talento così grande, molti ostacoli dovrebbero farsi da parte, quasi automaticamente, per permettere la naturale evoluzione del destino, che è quello di fare avverare tutto ciò che ci si aspetta. In parole povere verrebbe da pensare: e come poteva non venire fuori con quella voce? Ma non è così. Il mondo è pieno di geni incompresi e scommesse perdute. Ne sono pieni i bar, i parcheggi dei taxi e le sale da fumo degli uffici. Il mondo della musica non fa eccezione, anzi, non c'era nessun disegno scritto per Giorgia. Anche lei ha dovuto sudare, lottare, fare i conti con le esperienze. Anche lei ha dovuto cambiare. Anche lei, come gli altri, ha avuto bisogno di qualche imprescindibile, magnifico destino. Siamo qui per questo. A volte si vuole dimenticare per levarsi quella parte di sofferenza che uno si porta dietro col ricordo, e lo scatto, secondo me, avviene quando quella sofferenza diventa una parte di te e riesci a avvolgerla in qualcosa che si trasforma, e quindi il ricordo diventa sì una parte di te, ma non una parte a cui stare attaccata per non vivere, ma una parte che ti porti dietro mentre vivi. Fare un po' pace con se stesso, perché uno non si perdona le cose molto spesso nei ricordi, no? Rimane sempre qualcosa di non vissuto che avresti voluto dire, fare e non hai fatto, e in quel caso ti devi perdonare e dire: va bene lo stesso, vado bene lo stesso. Ecco, questo era tanto per sottolineare che non è che ci stiamo inventando le cose. La storia di Giorgia non si riassume in un'unica lunga nota acuta che cresce pura e incontaminata. Ci sono pause, improvvisazioni, sbagli, urla persino. Ora però basta parlare di queste cose, in fondo siamo qui soprattutto per la musica. Come on, let me tell you. What you got to do? Give up your pomelo. You got to. What I have to love. Father, get a chip. Forse non tutti lo sanno, ma nella famiglia Trodani la musica è la vera fede. E quando Giorgia nasce non può fare altro che prendere atto della cosa. Ne è un'appassionata la madre, che preferisce rivolgere lo sguardo e le orecchie verso la canzone italiana. E soprattutto il padre, che di mestiere canta e lo fa insieme alla sua band, che si chiama Io Vorrei la Pelle Nera. Una band che suona bene e con grande passione, come abbiamo appena sentito. Una band che, trascinata dal suo leader vocale, ha fatto una scelta chiara di stile e di genere che, inevitabilmente, ha trovato i suoi punti di riferimento. I've been so many places in my life and time. Sang a lot of signs. I've acted all my life in stages. With ten thousand of people watching. But we're loaded, I Sarà capitato spesso alla piccola Giorgia di sentire il papà cantare qualche pezzo di Ray Charles. Il signor Giulio ha una vera e propria predilezione per questo artista. Lo apprezza così tanto che quando deve scegliere il nome di sua figlia, fruga tra il suo repertorio per cercare ispirazione. E come era logico aspettarsi, la trova. Giorgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Intanto io ho avuto un condizionamento familiare assoluto, proprio sull'ascolto, sulle cose che giravano in casa, e una sorta anche di embargo, per cui entrava il musica. Il resto era vietato. Io fino ai 15 anni ignoravo tutta l'esistenza di tutta una parte di musica dove comunque non c'erano i cantanti, perché mio padre è cantante col culto della voce, quindi si ascoltavano le voci, quelle importanti, innanzitutto preferibilmente nere. Certo. E quindi già questo ti chiude perché non vedi nient'altro, e poi le voci virtuose, quindi già io sono partita da lì, però l'ho ricevuta un po' come una cosa, era normale, comunque mi piaceva ascoltare quelle cose e quindi ci convivevo tranquillamente. Crescendo poi ho cominciato ad ascoltare altre cose, anche di nascosto. Il viaggio di Giorgia comincia in compagnia di personaggi dal nome altisonante, come il Ray Charles che abbiamo già citato. Altisonante e scomodo perché, se cresci a Pane e a Rita Franklin, i termini di paragone portano inevitabilmente l'asticella verso l'alto. Ma c'è l'adolescenza a metterci una pezza. Quell'età in cui viene voglia di contestare, o quantomeno di abbozzare qualsiasi cosa i genitori dicono, per poi, al riparo da occhi indiscreti, lasciare sfogare tutta la propria ribellione. Mentre il padre la coltiva e comincia a portarsela sul palco, Giorgia si esercita di nascosto con i suoi preferiti, in gran segreto. La prima svolta per Giorgia arriva a 16 anni e porta l'abito di scena di un magnifico destino. Si chiama Luigi Rumbo, maestro e tenore, uno che si è tolto lo sfizio di esibirsi insieme alla grande Maria Callas ed è stato cantore della Cappella Sistina. La scelta è ricaduta su di lui dopo il tentativo fallito di papà Giulio di mettersi i panni dell'insegnante. Non è una scelta forzata, è una buona scelta. E mi ricordo che io, quando facevo gli esercizi, avevo delle note di passaggio dove proprio non ce la facevo. Poi andavo a cantare, tipo la sera nel club, senza dirlo al maestro, e facevo delle cose che erano oltre quella nota lì. Assolutamente naturale. Però non ero lì a pensarci a... Il lavoro del maestro Rumbo non è semplice. Davanti ai suoi occhi è un gioiello di valore inestimabile, ma per età e indole altrettanto fragile. La piccola Giorgia si getta nello studio con tutta l'irruenza e la paura di una ragazza che si trova a combattere contro ostacoli che sembrano insormontabili, salvo poi scomparire quasi per incanto di fronte al pubblico. Ci vuole pazienza e costanza, anche a costo ogni tanto di perdere le staffe. Una volta che stava lì con una palla di vetro che c'aveva quelle con la neve dentro sul pianoforte, stava per tirarmela perché non capivo. Le lezioni del maestro Luigi Rumbo si riveleranno presto molto preziose. Il tenore riesce a fornire alla voce di Giorgia gli strumenti giusti che le consentono di allargarne lo spettro e controllarne i vocalizzi, dandole sicurezza. Il resto poi verrà da sé. Perché io ho passato diverse fasi, dall'ignoranza totale di quello che facevo, non capivo, non avevo coscienza di come poi il fiato si traducesse e diventasse suono. E quindi tutta la fase in cui non capivo perché dovevo uniformarmi ad una respirazione, ad una tecnica, però ne sentivo la necessità nello stesso momento. Poi sono andata, come si dice, nel tunnel e quindi lì non mi riuscivano le cose. A un certo punto ho capito, mi è arrivata una luce da qualche parte, che non bisognava pensarci, non bisognava poi nell'atto pratico del cantare davanti al pubblico, tutto quello che tu comunque... che io potevo aver immagazzinato attraverso gli esercizi, in qualche modo mi in veniva... In maniera naturale? In maniera naturale, cioè meno ci pensavo e meglio era. deve averci pensato poco da un certo momento in poi, Giorgia, perché superata la fase di studio, metabolizzato il verbo del maestro Rumbo e caricatasi un po' di coraggio, la ragazza romana parte e da quel momento non si ferma più. A un certo punto è come se spuntasse all'improvviso un traguardo. La giovane Giorgia, se non proprio con indomito coraggio, quantomeno con grinta, si getta in un periodo intenso perché vuole arrivare da qualche parte. Oltre alle serate del padre, comincia a proporsi come corista, stregando professionisti del calibro del signor Zucchero e del signor Pupo. In più pubblica un paio di album con una piccola etichetta, nei quali interpreta alcuni dei più grandi pezzi R&B e soul. Cose tipo Chain of Fools e Unnatural Woman. Tutta roba con cui lei è cresciuta. Ain't no sunshine when she's gone. Wonder if she's going to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. A un certo punto io mi sono detta, ma questa cosa qua è mia. Insomma, ci sarà pure un modo per cui io possa usarla a modo mio. Certo. Quindi, poi, intanto, quando ho provato a cantare in italiano era già tutto diverso rispetto a quell'abitudine che avevo assimilato. C'è stato un po' di dolore? Una fatica terribile. C'è stata una fase di grande fatica. Beh, un po' di fatica era prevedibile. È una regola che vale per tutti, anche per i più dotati. Non c'è privilegio che tenga, ma è un elemento necessario. Giorgia Todrani, giovane talento predestinato, dopo aver scalato le proprie pareti, arriva dove voleva arrivare, a Sanremo, categoria giovani, perché la gavetta è la gavetta, anche per lei. A riceverla, ovviamente, il Pippo nazionale. Giorgia, buonasera. Dunque, Giorgia, dicevo, è un disco prodotto dallo stesso produttore Diana Ross, anche in Giappone hai fatto qualche apparizione, sì, sì. Perché il pubblico giapponese ama molto la musica italiana. Eh? Moltissimo, hanno molto rispetto, devo dire, per noi. Infatti il karaoke è nato lì. È nato lì. E si divertivano a cantarlo con le musiche italiane. Sono stato a Tokyo, facevano proprio così. Allora, parliamo della tua canzone che si intitola Nasceremo, un testo d'amore scritto da una donna innamorata che sente il suo uomo ovunque addosso. Nasceremo, Giorgia. Troppe luci intorno a me, troppe ombre intorno a me, troppe voci che confondo con la tua. È inutile girarci intorno, tanto da qualunque parte la si guardi o si tenti di prenderla, il risultato non cambia. Sarà stato faticoso, ma è anche vero che la storia di Giorgia, per certe cose, sia chiaro, è un insieme assolutamente ordinato di conseguenze previste. Arrivo a Sanremo e vittoria. E che vittoria! Prima classificata, 6.261 voti, Giorgia, Nasceremo! Il 31esimo. Il 31esimo è splendida voce davvero. Troppe luci intorno a me, troppe ombre intorno a me, troppe voci che confondo con la tua. E ti sento come stai, se ti stanchi, se ti muovi, e ti sento dentro sei, come brividi e di più. Un disastro, perché ho comprato i miei jeans 2 giorni prima di partire per Sanremo, non li ho trovati neri e li ho dovuti far tingere da mia mamma. Che bello. E che poi mi... ce l'ha con me a morte perché dice che ero vestita malissimo e quindi mi ha ancora nero. Avevo dei jeans neri tinti da lei e un toppino con la lampo molto semplice. Sì. E mi hanno detto che lei mi ha detto: "Ma dove vai? Sembri una poveraccia", mi ha detto. La cosa incredibile di Giorgia è la naturalezza con cui parla di certe cose. È talmente immersa nella musica fin da quando ha mosso i suoi primi passi, talmente dentro a questo mondo che se le chiedi della vittoria a Sanremo Giovani, lei ti parla del vestito. Come se il suo corpo fosse già pieno fino all'orlo di cellule dedicate alle note, alle armonie, al canto e necessitasse di qualche piccolo poro da cui sfogare. O forse, semplicemente, ha poco più di 20 anni. Ha già capito come si ascolta. L'ascolto deve essere dentro. Cioè, te ne devi proprio fregare del suono che senti, perché il suono a volte ti tradisce, perché per seguire il suono ti viene quella paura, ti viene come devo farla sta cosa, adesso vado là, ora no. Tanto se ci devi andare ci andrai lo stesso. E poi sarà come bruciare nell'inferno che imprigiona. E se ti chiamo amore tu non ridere, se ti chiamo amore. E poi sarà come morire. E poi finalmente Giorgia sbanca il vero Sanremo, quello dei grandi. Stavamo tutti aspettando quel momento, anche lei naturalmente. Viene da pensare che la ragazza abbia quasi giocato col festival. Tutti si aspettano la vittoria l'anno dopo il trionfo nella sezione giovani. E la canzone in effetti lo meriterebbe, ma si sa. Sanremo è Sanremo e il brano finisce settimo. Rabbia, delusione, ma che? Come succede spesso, la canzone E poi scavalca i recinti del festival e invade le radio, consacrando l'artista romana al grande pubblico. In fondo per la vittoria c'è sempre tempo. Basta aspettare l'anno successivo. Io dovevo essere felicissima, gioire, andiamo, facciamo. Io ero già in paranoia perché, oddio, ma poi la gente mi conosce solo così, per ma io questo. Non sono solo così. Che a me piace anche, che ne so, il blues, mi piace il soul, voglio comunque cercare e mescolare quello che, da cui io venivo a quello che mi ritrovavo in quel momento, che era tantissimo. L'avevamo detto che sarebbe stata un po' complicata la faccenda, ma a pensarci bene ci può stare. Se hai 24 anni e hai già vinto tutto quello che c'era da vincere a Sanremo, come se avessi bevuto uno spritz, allora è inevitabile che uno si spaventi o che qualche piccola paranoia emerga. Viene il sospetto che forse il grande nemico di Giorgia sia stata la sensazione che potesse fare qualsiasi cosa, che da un lato ti fa sentire invincibile, ma dall'altro ti può logorare. La prima cosa che è cambiata è il fatto che faccio un sacco di cose, sto molto in giro per la promozione del disco, quindi lavoro molto più di prima. Prima il lavoro era più in studio, magari nei concerti in giro, e adesso è più, il lavoro è più concentrato, quindi comunque mi porta via tempo. Ormai la sfida è lanciata, il dado è stato tratto, non si può più tornare indietro. Giorgia Todrani è diventata una cantante con tutte le implicazioni che questo sostantivo comporta. Non c'è più la band del padre alle spalle, non c'è più il maestro rumbo a indicare ottave a cui puntare per poi ritornare giù. C'è solo una voce straordinaria e un pubblico nutrito, caloroso, che comincia ad accalcarsi numeroso davanti a lei prima di ogni esibizione. C'è una ragazza che vuole diventare donna, attraverso il dono inestimabile che le è stato consegnato da piccola. C'è un futuro da scrivere e che dovrà inevitabilmente passare attraverso delle scelte e delle persone. Un destino che dovrà vedersela con la vita per diventare magnifico. I magnifici destini. E basta il pensiero, cioè già quello ti dà la forza di fare anche un piccolo cambiamento. Il fatto di poter dire, vabbè, io me ne vado via proprio, chiudo tutto, chiudo anche gli occhi mentre chiudo la porta e me ne vado. Ed è un momento di grande forza, secondo me. Poi raccogli i cocci, però intanto cioè, è l'inizio del cambiamento quello. È giunta l'ora di cambiare per la nostra protagonista di oggi, Giorgia Todrani, Giorgia per tutti, che tiene sempre stretto dentro di sé quel dono meraviglioso che la vita le ha dato. Una voce pura, musicale, unica, su cui ha lavorato tanto durante l'adolescenza per renderla forte e sicura. Un percorso che ha affrontato con un misto di paura e di coraggio, prima col padre, poi con il suo primo magnifico destino, il maestro Luigi Rumbo, e infine con se stessa. Il trionfo a Sanremo ha sancito quello che per molti era un passaggio scontato. Ma è lei la prima a sapere che non è così. Ora che le danze sono state aperte, bisogna capire quale sarà il prossimo ballo. Quello che è certo è che nei limiti del possibile sarà qualcosa di un po' diverso. Ma con chi sei? Il fumo mi consuma, sai? Di notte sono gelosa. Me la pagherai. Provo a respirare, devo stare calma, controllare le funzioni biologiche. Ci vogliono un paio d'anni per metabolizzare il successo che irrompe nel quotidiano. Un paio di anni in cui la cantante pubblica album e si lancia in un suo tour, oltre a concedersi un ritorno a Sanremo, alla faccia del Pippo Nazionale che si lamentava che i vincitori si dimenticano del festival. C'è anche un onore, uno dei tanti che costelleranno la carriera di Giorgia. Elton John la vuole assolutamente per l'apertura del suo tour italiano, dopo essere stato conquistato dal suo timbro. Tutto fieno che viene messo in cascina. Ma c'è dell'altro che bolle in pentola. C'è la volontà di fare un altro passo, di andare alla ricerca di qualcosa, di mettersi in gioco. Cioè, una delle cose belle della musica è che ti porta a scambiare informazioni con altri. Ed è lì poi che tu puoi cogliere altre cose che non conoscevi. Le collaborazioni diventeranno presto uno degli elementi portanti della carriera di Giorgia. Uno dei punti chiave a cui cercherà sempre di non rinunciare. Quando si va in cerca di informazioni bisogna avere la lucidità di capire quali sono le informazioni che stai cercando e chi è in grado di fornirtele. Dopo il trionfo melodico, Giorgia è alla ricerca di musica che non la costringa a rimanere rinchiusa in un recinto, ma che le consenta al contrario di mettere in mostra le altre sue innumerevoli capacità. Ci vuole un magnifico destino, qualcuno che sia stato capace di andare al di là delle apparenze e abbia avuto il coraggio di rischiare e di mischiare. Buonasera a tutti, anche a nome di Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Rino Zurzolo, alla tastiera c'è Gio Amoruso, usassofono James Semesi, sono anche il lirico e io sono la chitarra e canto in napoletano, quindi se qualche cosa non l'ha capito non fa niente, l'importante è il sentimento. Ricordate bene questi nomi perché sono quelli di una delle band migliori che abbiano mai suonato su un palcoscenico. Lo diciamo senza timore di essere smentiti. È lui il capopopolo, è Giuseppe Daniele detto Pino. Pensate al jazz, al rock e soprattutto al blues. Poi pensate a una tazzulella e caffè. Ecco, questo è Pino. Giorgia si incontrano nel 1997 e, come era prevedibile, qualcosa succede. Succede che i due si piacciono artisticamente parlando. Succede che decidono di collaborare per diversi motivi, perché c'è feeling, perché Giorgia ha voglia di cambiare un po' pelle, perché Pino, quando trova terreno fertile, non se lo fa dire due volte. Quello che ne scaturisce è qualcosa di interessante, naturalmente, e anche diverso in qualche modo, proprio come voleva Giorgia. Qualcosa che suona bene. Sono lì quando mi chiami. Io non lo so quello che pensi di me. Ehi, guarda che non sono una bambola. Io che in tutto quel che faccio ci metto l'anima. Sogno un amore da favola. Ho tanto bisogno di te. Ma noi abbiamo anche prodotto un disco insieme, abbiamo scritto le canzoni insieme un po' di tempo fa e ogni tanto insomma scriviamo delle cose e facciamo dei brani e le cose nascono perché c'è sintonia, perché c'è voglia di farle pure, no? È una sintonia destinata a durare nel tempo, quella che porta Pino Daniele a scrivere e produrre con Giorgia Mangio troppa cioccolata, terzo album di studio che riesce nel tentativo di mostrare un'altra Giorgia al pubblico. Innanzitutto a partire dal look. La chioma bruna e ordinata viene spazzata via, lasciando il posto a una tonda testa rasata. Poi, naturalmente, anche il sound subisce una rimescolata. Grazie all'aiuto di Pino, la cantante romana abbandona le melodie più classiche per inseguire una dimensione più pop e sbarazzina, senza rinunciare alla sua vena soul. È una Giorgia effettivamente nuova quella che emerge, anche più donna, più matura. Una Giorgia che non si limita all'interpretazione, ma che ha cominciato anche a scrivere. Anche la scrittura, comunque anche lì, quello è stato per me un passaggio molto importante, cioè una fase è tuttora in evoluzione, e perché sono passata dal privilegiare le note, le melodie, poi sono arrivata alle parole finalmente, quando ho sentito di dover dire, che avevo delle cose da dire. E quindi lì chi ci rimetteva, la parola o la nota? Lì la scelta, adesso non me lo faccio più. Adesso non ti fai più problemi. No, molto, molto di meno. Un'ora sola ti vorrei. Io che non so scordarti mai. Per dirti ancora nei baci miei. Che cosa sei per me? In effetti, con l'aiuto di Pino, Giorgia ha trovato una dimensione. Ora può sfoggiare il dono senza timore di non risultarne all'altezza. Non è nulla di definitivo, sia chiaro. La strada è ancora lunga e le cose possono cambiare ulteriormente, ma di sicuro non si torna più indietro. C'è molta consapevolezza davanti al naso e c'è un percorso che ora può essere affrontato seguendo le proprie pulsioni. Adesso per Giorgia non si tratta di capire se ce la farà, ma si tratta di vedere cosa farà, in che direzione andrà e perché, considerato che ha ampie facoltà di scelta. E quando arriva il momento di scegliere, arriva puntuale il destino. Quanti amori avrai? Era destino, in effetti, che le anime di Alex Baroni e Giorgia si dovessero incontrare e unire. Lo era perché, se uno va a vedere, i segnali erano troppo evidenti. A cominciare dalla voce, straordinaria come quella di Giorgia, anche quella di Alex. Stessi esercizi e chissà, forse anche stesse paure nell'affrontare una tale benedizione. E poi il percorso, le prime serate nei club, le esperienze da corista, fino a Sanremo Giovani, dove strega tutti, esattamente come la cantante romana, vincendo e convincendo. E vendendo anche. Sanremo fu Galeotto. Sanremo perché è lì che si conoscono ed è lì che si guardano per la prima volta negli occhi ed è lì che nasce l'intesa. Le storie d'amore tra cantanti hanno sempre avuto un fascino particolare. Uno se le immagina lì a dedicarsi canzoni una dopo l'altra, pronti a colpirsi a vicenda, a vivere momenti magici cavalcando insieme l'onda dell'arte e del successo, a viaggiare e a scambiarsi idee e segreti. C'è tanta roba lì dentro ed è per questo che spesso risultano turbolente, qualcuna per la verità un po' artefatta, altre molto, molto intense. Alex e Giorgia si conoscono, si frequentano, si scambiano pensieri e poi si innamorano. Lavorano insieme. Alex aiuta Giorgia nella realizzazione di due album, Girasole e Senza ali, firmando un paio di canzoni. E altrettanto fa la cantante romana con lui per il suo album Ultimamente. È una relazione che dura 4 anni, in cui vengono coinvolti lavoro e sentimenti, in cui i due crescono e si evolvono insieme. Poi finisce, perché alla fine molte storie finiscono. Ma così sarebbe semplice. E come abbiamo capito, la storia di Giorgia non lo è. Vorrei che fossi sempre qui. 25 giorni di speranza. Tanti sono stati quelli in cui Alex Baroni, l'angelo, per migliaia di suoi fans, ha lottato nel silenzio del coma. E ieri, alle 17:45, questa speranza si è spezzata. Per sempre. Alex aveva solo 35 anni. Ora il dolore ha preso il posto di quella speranza, dolore di molti giovani che amano la musica di Alex e che anche via internet continuano ad esprimerla. La morte si porta via Alessandro Baroni nel marzo del 2002, in seguito a un incidente stradale. Alex e Giorgia si erano lasciati da poco, ma questo non diminuisce il dolore. Avevano condiviso molti momenti, molta musica soprattutto. Le ultime note vissute insieme andavano alla ricerca di un respiro più internazionale. Era un obiettivo che avevano entrambi, perché entrambi avevano i loro idoli. i Beatles e Stevie Wonder per Alex, Arita e compagnia per Giorgia. Ma la vita ama spezzare ogni tanto, anche per vedere se ci si riesce a rialzare. Questo è il prezzo che questo mondo impone a noi, di vivere senza certezza alcuna. In vele con il flu, disperati amanti che non hanno mai trovato amore puro. I magnifici destini. Io se riesco, non credo che riuscirò, però velocemente volevo solamente ringraziare tutte le persone che amano Alex, che siete voi, che sono i musicisti, i colleghi, gli amici preziosi. Basta. Dammi un accordo, Sandro. Chi me lo dà? Fammi 3 e 4. Ti nasconderai dentro i sogni miei. I magnifici destini alle prese col destino, meraviglioso, tribolato, di Giorgia Todrani, voce del Verbo cantare della musica italiana, ma anche anima fragile che ha dovuto nascondersi, scegliere, cambiare e gridare per poi lasciare tutti di stucco ad ogni apertura di brano. L'omaggio ad Alex Baroni, magnifico e tragico destino, è l'occasione per un altro salto, l'ennesimo, pensato con l'obiettivo di dare il giusto valore al suo dono più prezioso, la sua voce. Le esperienze e gli incontri hanno forgiato il cuore caldo di questa ragazza, fortificandone lo spirito e modificandone l'anima. Più la situazione non è spontanea, quindi magari potrebbe essere questo, e più ti incasini e più ti preoccupi. Invece se, cioè, l'unica cosa è lasciarsi andare, comunque ricordarti che quello, cioè, tu canti, il perché canti, quella è una. E poi se la sbagli, chi se ne frega, capito? Sarà un po' sbrigativo come concetto, ma in quanto efficacia non è secondo a nessuno. Giorgia ricomincia a correre dopo un periodo di inevitabile flessione, di metabolizzazione, e lo fa a gambe levate. Non c'è più niente che la spaventi ormai, niente che la possa più fermare. Uno spirito libero sa quello che vuole, sa quando è ora di ballare. Tieni il tempo, muovi il corpo, scegli il passo e tirati su. Dammi un colore e non ti sbagliare. Ricordati che non c'è padrone che ci possa comandare. Cioè, io penso, è come il cantare le cose mai nello stesso modo. Comunque devi sempre andare oltre te stesso, almeno provarci, cioè provare a vedere che altro rischiare. Puoi fare, provare a cambiare, rischiare. E cambiare è il rischio, perché poi cambio e poi magari non funziona più, però alla fine se uno fa le cose con la, veramente con la reale passione di farle, allora il cambiamento diventa un dovere e ti disinteressi poi di come andranno le cose. Questo è Ladra di Vento, il capitolo R&B della storia di Giorgia, ma è più in generale lo spirito di cui la cantante ormai si è definitivamente appropriata. È lo spirito che la porta a fare cinema, radio e a concedersi apparizioni TV ovunque ritenga necessario regalare perle. È lo spirito che ha conquistato MTV, che le concede l'onore, prima in Italia, di un disco Unplugged. È lo spirito che dà al suo mestiere un respiro internazionale, tra produttori, studi di registrazione e colleghi. È lo spirito che le fa scavalcare il ruolo di artista per diventare ambasciatrice UNICEF e lottare per l'ambiente. È lo spirito di chi ha vissuto e si porta dietro quell'esperienza. Tu ti giri indietro e vedi che un pezzo di strada l'hai fatto, cerchi di prendere il buono di tutto quel pezzo di strada e di portartelo dietro, concedendoti anche l'essere diversa da te, quindi magari scoprire anche delle cose di te che non credevi, o levare delle cose che credevi fossero tue, proprio del carattere, e invece scoprire che non era roba tua ma era roba che ti si è appiccicata col vissuto e di cui è bene liberarsi. Inestimabile e inafferrabile tua assenza che mi appartiene, siamo indivisibili, siamo uguali e fragili, siamo già così lontani. Se uno si mette a leggere l'elenco delle collaborazioni di Giorgia, rimane senza fiato. Sono davvero innumerevoli e tutte di altissima qualità. Elton John, Ray Charles, Lionel Richie, tanto per fare qualche nome mondiale, ma anche Elio, Ramazzotti, il tanto amato Pino Daniele e Zucchero, per rimanere a casa. Ma ce n'è una in particolare che le è rimasta nel cuore. Una magnifica collaborazione, potremmo chiamarla. Lui è Herbie Hancock, un pilastro. Per lui è sempre una scoperta, anche suonando le stesse cose da anni, non è mai la stessa cosa. E io facevo anche delle mie cose insieme a lui, dei pezzi miei, che ogni volta erano un viaggio diverso, perché lui non suona... Ovviamente la sua ricerca è di andare sempre fuori dallo schema, cioè se l'accordo è do, lui fa un'altra cosa. Comunque fa un do che prima di capire che do, tu stai lì che... Questa in effetti è tutta da godere. Non capita tutti i giorni di trovarsi in uno studio con chi la musica non si è accontentato di suonarla, ma ha anche provato a cambiarla, iniettandole fluidi nuovi. Herbert Jeffrey Hancock lo ha fatto, iniziando dal jazz e da Miles Davis, per poi librarsi in volo verso l'universo sconosciuto e meraviglioso del funk elettronico, sincopato, sofisticato. Un genio in parole povere. E lavorare con un genio non può che portare a qualcosa di magnifico, qualsiasi sia il tipo di scambio che si sta effettuando. E lui mi disse proprio di non avere mai paura di perdermi, perché una sera eravamo a Londra a suonare e io mi sono cappottata su un pezzo anche importante che era The Man I Love. E non so che è successo, poi in qualche modo siamo arrivati alla fine, quindi poi sono andata a scusarmi nel camerino perché mi sentivo... abbastanza depressa da questo mio fallimento, e lui mi disse: ma guarda, no, non mi sono neanche accorto, perché se non ti perdi non crei niente. E io da quel momento mi perdo continuamente. Senza ali io volerò verso il mare sconosciuto che riposa nella mente di chi non riposa mai e di chi crede. Ci deve essere stato un grande bagliore nel camerino mentre Herbie e Giorgia si parlavano. Succede così, per quanto ne sappiamo, quando una rivelazione viene a mettere ordine nelle vite. E alla cantante romana è successo più di una volta. Di recente, a illuminare il suo cammino, è intervenuto anche Jovanotti con un singolo in cui Lorenzo ha messo a disposizione tutto il suo entusiasmo. Finalmente, sì, è stato un po' un realizzare il desiderio che avevo. Perché poi lui, anche la persona che lui è, comunque con lui c'è uno scambio proprio profondo, lui ti dà sempre qualcosa, perché la ricerca che lui fa a livello interiore arriva nella sua musica, no? E quindi mi volevo avere qualcosa da condividere con lui, e quando è arrivata la canzone io ho detto: io non la so cantare, perché comunque è scritta come da uno che viene dal rap, e sembra facile da cantare. Io vi invito a provare, ma ci vuole un fiato pazzesco, non lo è affatto, ci ho messo un po' a farla come si deve. Giorgia e Lorenzo hanno saputo incontrarsi nonostante il background musicale e gli stili canori così differenti. Certamente è merito della sensibilità di Jovanotti, che sa vedere le potenzialità di chi ha di fronte, ma soprattutto di Giorgia, che ha saputo coltivare con cura e senza paura il dono prezioso che le è stato recapitato in casa. Quella voce unica, incantevole e ondivaga che le ha permesso di mettere in musica la vita che le si è srotolata davanti.